sostanziale, speciale, eccezionale, se tu sei ta speciale. Cosa spaziale, speciale, eccezionale, se tu Coxofocus. Coxofocus, l'hai imparato. Coxofocus. Bravo, continua così, Coxo, ancora. Coxofocus. Ancora. Coxofocus. Posso farcela, posso farcela. Beh, ho ancora bisogno però di studi approfonditi. Ma io lo so che tu sei una mente brillante, estremamente rizomatica e spaziale, e quindi non posso dubitare del fatto che ti coxicherai presto. Lo prendo come un complimento, qualsiasi cosa significhi. Ma abbiamo... No, allora, innanzitutto non siamo più sul coxo spaziale speciale setup. Bensì siamo sul Coxo Focus per gli speciali del Coxo Setup. E quindi qui noi andremo ad indagare il Coxo Focus con una realtà veramente veramente coxica. Scusatemi ragazzi, ma quando ci vuole ci vuole. E praticamente questo Coxo Focus cos'è? Hai studiato? L'Accademia della Crusca non ha ancora dato una sua risposta ufficiale. Sono le fonti. Allora, il Coxo Focus, realizzato per questa occasione di Coxo Spaziale Setup, sì. si concentra su quelle che sono le realtà che, a partire da un ambito performativo, vanno poi ad usare codici solitamente... solitamente alle altre arti, solitamente riconosciuti, tangenziali, specifici. Beh, insomma, la questione è che siamo nell'ambito del contemporaneo. Setup è la prima fiera dell'arte a Bologna completamente dedicata al contemporaneo, e noi abbiamo qui uno dei primi festival completamente dedicati al contemporaneo, e niente po' di meno che per Aspera, nella figura di Ennio Ruffolo. Ciao a tutti. Maria Donnoli. Ciao, grazie dell'invito, Fedra. E Vincenzo Scorza. Ciao. Questo è Stefano Migliore, ancora qui per gli speciali del Coxo, super mega galattico co-conduttore, e questo è Coxo Focus 3. Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. Figlio della mia famiglia, sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa, e tu moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Ottocento, novecento, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò. Pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle vie a rotola, e quante belle figlie nel mare. Figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio, quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio. Ave, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio. Eine kleine Pinzimonie, Wundermatrimonie, Krauten und der Birnen. Und Patellen und der Sellen, Fischen, Zanzibar. Und ein Iker klaffen früher vor Schlafen und der Wochen mit der Walze. Und die Alka-Seltzer für die Mentika. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie! Quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocare! E quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle figlie a rotolare! E quante belle figlie del mare! Cara Fedra. Caro Stefano, allora sei pronto? Sono sempre più emozionato. Sei sempre più mega galattico? Sì, sì. E noi con chi cominciamo ad affrontare questo tema? Innanzitutto grazie per essere qui ancora insieme al Coxo, perché voi siete dei grandi amici di Coxo Spaziale ed è sempre bello avervi qui in studio, sia in studio FM che al telefono, che orizzontali, come abbiamo detto con Pasquini e Cavallucci durante il primo incontro. Guarda già anche che spirito cooperativo e collaborativo che hanno. Vincenzo sta tenendo il microfono esattamente al centro di tutti e tre per fare intervenire. Sta facendo da asta perché lui umana. È il nostro direttore tecnico, esatto, all'interno del festival, oltre che curatore della sezione musicale, e quindi entra immediatamente nel ruolo e cura tutti gli aspetti che sono relativi a quello che è il suono e a come il suono arriva. Infatti non so se vedi che anche corregge la distanza Ma del con microfono. Grande efficienza, veramente. Assolutamente. Sono sul pezzo. Perché Vincenzo comincia come musicista, giusto? Sì, io mi occupo di musica. E continua anche. Continuo a occuparmi di musica, esattamente. E incidentalmente mi occupo anche di tecnica, cioè, a parte incidentalmente, nel senso che all'interno del Festival per Aspera mi occupo della direzione tecnica e quindi di interfacciarmi tra gli artisti e la direzione organizzativa del festival e fare in modo che le esigenze degli artisti siano il più possibile, diciamo, come aiutatemi con le parole perché ho lavorato tutta la notte. Insomma, è il più amato del festival, dagli artisti, fidatevi, è amatissimo. Ma Vincenzo, allora toglimi questo dubbio atavico che ho sempre avuto, quando la performance, il concerto, quello che è, quando va bene è merito dell'artista, quando va male È colpa del fonico, è colpa del tecnico. Sì, esattamente così. È vero, esatto, cioè, quando confermi. Va male qualcosa, tutti si girano verso di te. Certo. Quando qualcosa va bene, tutti si girano verso l'artista. E questo è un classico, come dire. Ci sono anche momenti di indecisione in cui guarda a metà strada. Forse qualche volta, nell'ambito del contemporaneo, perché certi codici, certe provocazioni si spingono talmente oltre che mettono proprio questo punto di domanda: ma sarà un difetto o un... È vero. Mi ricordo questa cosa, uno spettacolo mio di 4 anni fa, forse l'ultima volta che ho fatto qualcosa con Macelleria. E avevo invitato dei fotografi che erano un po' rumorosi, perché erano 3, e tutti pensavano che era dentro lo spettacolo, invece no, io ero abbastanza incazzato con loro, perché facevano più casino che altro. E dopo gli applausi, e alla fine complimenti mi hanno chiesto, per la scelta infatti, di questo... Ma questa scelta di disturbare noi nel prendere lo spettacolo, e ho fatto, no, guardate, non era così, comunque succede quello che dici. E comunque questi sono poi, Maria Donnoli, lei è il cuore, la mente, è tutto, è il collante e di Peraspera. Il collante mi piace, il collante. No? Che poi ci fosse Pasquini, ci sarebbe anche il suo eufemico titolo di gnocchitudine. Io non ho il titolo per affidarlo, però so che ce l'hai già. Comunque, diciamo che dai vostri punti di vista, quindi organizzatori e realizzatori di un festival di arti performative contemporanee, voi avete proprio modo di entrare nello specifico anche a partire dalle necessità che di questi lavori del contemporaneo. E quindi, visto che il tema è andare a vedere a partire dal bacino delle performing art, se ha ancora forse senso adesso parlare di suddivisione dei codici, oppure se in quel bacino le frontiere si abbattono, voi mi potete aiutare di brutto. Sicuramente si fa sempre più fatica, e fortunatamente intendiamoci, a individuare dei confini tra le diverse forme. E, recentemente, proprio in questi giorni, è stata pubblicata, e ancora non adeguatamente pubblicizzata, ma lo faremo da lunedì, la open call per la prossima edizione del festival, che è la nona. E lì, per forza di cose, dobbiamo individuare delle categorie in cui far rientrare dei lavori. Però quando Ennio, che è il direttore artistico, si trova a individuare i lavori da selezionare, notiamo come sia sempre più complesso in realtà andarli ad incasellare, perché c'è una fusione di linguaggi molto forte. E molti linguaggi effettivamente dal performativo confluiscono nell'installativo, quindi ci ritroviamo perfettamente nel tema. Vorrei fare un esempio a favore di un pubblico magari meno aduso a questi argomenti, a questi temi. E, ad esempio, al festival della scorsa edizione avete presentato una macchinina, un'installazione che era una macchinina in cui arrivava lo spettatore, fruitore, come passante, essere umano, e girava la macchinetta e gli veniva dato un sogno o qualcosa del genere. Ecco, questo è una performance che viene richiesta a chi la al fa? Al pubblico, sì. E, tu ti stai riferendo ad una bellissima installazione che è molto divertente, molto dolce, di una artista giovane che abita a Bologna, si chiama Alessandra Bincoletto, e lei realizza questi carillon a tutti gli effetti, quindi ci sono delle strisce di carta che sono prodotte da lei, bucate da lei per poter generare delle melodie. Ma l'ispirazione per generare questa melodia è data dallo spettatore, perché è lo spettatore che scrive, che lascia il proprio pensiero sulla striscia di carta. Lo spettatore lascia il proprio pensiero, sogno, desiderio sulla carta, e Alessandra fa diventare questo pensiero un suono, e lo spettatore può suonare il proprio sogno, il proprio pensiero, e lasciarlo lì perché qualcun altro lo suoni. Ed io, caro Stefano, un lavoro del genere me lo aspetterei in una galleria, e invece me lo trovo in un festival di arti performative. Beh, ma è una buona notizia, sembra questa. Sì, io da profano, perché io sono un po' un dinosauro, invece io vado a queste cose violente, le proiezioni cinematografiche. Pensate, allora, che ci sono degli sconosciuti che vanno ad un orario prestabilito in una sala buia con della gente che non conoscono e col quale raramente parlano. Pensate, invece mi piace questo mondo che il coxo spaziale mi sta... Stefano, sei più coxico di quanto potessi sperare. Ma perché il seminario al quale ho partecipato, notti insonni di studio... Io direi, per lasciare un pochino riflettere e sedimentare questo tema, visto che sei fresco di workshop, mettiamo un brano, magari potrebbe essere un brano di Vincenzo? Addirittura. Me lo passi, che lo mando? E come te lo passo? Vabbè, poi è registrato. Va bene. Non l'avevi capito? Che è registrato. Magari faccio la che mi riattacco un attimo. Però ha lavorato fino alle 6 stanotte, per quello. Non sei l'unico, caro. Comunque, magari un pezzo di Vincenzo. Va bene. No, mi sa che non taglio, tengo prima e tutto fino a qua. Eccoci. Coxo Focus per il Coxo Spaziale e speciale setup nello super mega galattico studio che Radio Città Fujiko ha realizzato qui al primo piano dell'autostazione, la ormai consolidata sede di setup giunto alla quarta edizione. Ed è con me, perché ieri ho fatto anche un po' con Willy, quindi di tanto in tanto mi ritorna un po' l'onda veramente radiofonica. Lui è il vero professionista di Radio Città Fujiko. Mamma mia, inchiniamoci al maestro. Noi siamo tutti appassionati. Sì, gli uni degli altri. anche in senso olimpico. Olimpico. Olimpionico. Va bene. Ok. E non mi distrarre, però non mi far divagare oltre che le già rizomatiche cime del Coxo. E quindi tu adesso sei pronto, me l'hai detto, hai la domanda da Coxo Focus. La domanda da Coxo Focus, non so se una domanda da Coxo Focus è in realtà un mio dubbio così molto personale, probabilmente anche banale, però insomma si parlava della difficoltà di creare delle categorie che sono necessarie non tanto per un punto di vista critico o politico, ma quanto anche da un punto di vista organizzativo. E allora come si fa a inventarsele, a capirle queste categorie? Come si fa a inventarsi? Si può? È possibile inventarsi delle categorie? Ha senso? Ma certo che ha senso. Ha senso più che altro per il ritmo della serata, per dare la possibilità alla... Cosa stai facendo? Più vicino. Devo amarlo? Devo coccolarlo. Allora, ha senso. Ha senso perché così dai una possibilità. Ogni serata del festival deve dare uno sguardo alle diverse tipologie di arti performative. È ovvio che tutte sono contaminate l'una con l'altra, però è il performer in effetti che decide qual è la sezione a cui appartiene. È ovvio che se Vincenzo, che lavorerà comunque con i video o può lavorare sia con i video o anche con un artista di altro genere, magari un performer, però è la musica il suo strumento ed è questo che diventa come primaria, di primaria importanza. Così se dovessi farlo io, sono un performer, quindi è il teatro che mi rappresenta. Poi è ovvio che nel mio teatro magari non si parla, è musica dall'inizio alla fine con dei video che fanno tutto il resto, però sicuramente il performer teatrale è la mia zona. È così per tutti gli altri, i danzatori che sono tra quelli più amati da me. Certo. O lo stesso performer tipo Fedra. No? Ma sì. Vero Fedra? Che è qui con noi, che salutiamo Fedra. Io sono un po' emozionata di trovarmi qui in radio come ospite di Coxo Spaziale e di Stefano W. Migliore, quindi sei grazie per avermi menzionato. Sei la benvenuta, Fedra, anzi sono un mio onore renderti... No, non riesco a continuare questa cosa meta radiofonica, ero su altre metafisicità perché... Non è abbastanza attore, Stefano? No, sono un pessimo attore e difatti sono anche non so dire le bugie, per esempio. Però è discretamente gnocco e anche molto radiofonico. Questo anche, ti ringrazio. Era una citazione da Pasquini. Ah ecco, pensavo la fosse vero. Supera il maestro. No, è verissimo. Un'altra domanda invece era sulla struttura di un evento di questo tipo, e qui faccio appello di nuovo alle mie categorie etnologiche, proprio da dinosauro, da noi vecchi ottusi cinematografari. È che anche quando si parla di festival cinematografici, comunque che siano concorsi o meno, si parla comunque di costruire in qualche modo una narrazione che si sviluppi all'interno delle stesse giornate, all'interno di tutto l'arco del festival. Come vi rapportate voi con la costruzione, con una costruzione narrativa in questo senso, coxico, spaziale, metafisico? Vicino il microfono. Sì, è vero. È come costruire un brano musicale, lo stesso modo. Credo che sia... io non ho mai fatto brani musicali, però poi è la stessa la identica cosa. Nel senso che c'è un... si comincia poi c'è un ritornello, come si può chiamare, un refrain, non lo so, e poi si deve ritornare, è proprio un ritmo, è come fare uno spettacolo e fare la stessa cosa una serata, e quindi un brano musicale. Tutto parte dalla matematica, la stessa musica parte dalla matematica, e anche una serata parte da questo. Quando uno scegliamo in effetti poi tutti insieme gli ospiti della serata, si cerca sempre di dare un'armonia e anche un'atmosfera, e ogni sera in effetti l'atmosfera cambia, e anche poi dipende un sacco anche dai luoghi, perché il festival per Aspera vive di luoghi differenti e ogni luogo ha una sua anima, questo è certo, e insieme agli artisti stessi noi creiamo quest'anima. Ma non perché c'è Fedra qui presente, però ospite, Fedra è ospite d'onore. Ogni volta che invito Fedra so già dove sarà. Fedra. Dove metterla. dove vederla, no, più che metterla. Dove impaginarla. Io già la vedo in questo luogo. E questa è una cosa che ne parliamo anche se... Ma una cosa bella o una cosa brutta? Per me è bellissima, perché vabbè, io amo il lavoro di Fedra. Scusami, Ennio, quella volta che mi hai impaginato sopra il barile. Esatto. Mi sono perso qualcosa. L'impaginazione era più ampia, mi sono il barile, me lo sono scelto io, però certo. Mi piaceva come... come luogo, no? Come spunto alla riflessione, rimembrare quel barile. Era una preview del festival all'ex senza filtro, in uno spazio industriale enorme dove c'era l'appunto numero 9. Era ancora il 9, sì. Era l'appunto 9, Stefano. Fedra, quindi vuoi raccontarci? No, per andare incontro alla sua domanda, che chiedeva come, magari visto che il suo linguaggio e la sua esperienza è più legata al cinema, forse l'esempio potrebbe essere quello della timeline, no? Quindi una linea progressiva in cui tu fai il tuo montaggio mettendo in bilanciamento i livelli delle varie linee comunicative. È vero, è giusto, un esempio calzante. Grazie Stefano, è meraviglioso. Prego. Essere tuo ospite. Prego, guarda, sei veramente la mia ospite preferita della tua trasmissione, che questo fa di Coxo Spaziale una delle trasmissioni anche più esistenzialiste del panorama radiofonico europeo. Abbiamo ancora il direttore di Per Aspera. No, volevo dire questo, che è ovvio che se hai uno spettacolo di un'ora e mezza su un qualcosa di molto profondo, non lo metti a mezzanotte, ecco. Questo è molto semplice, molto classico. Ed è umano, comprensione nei confronti del pubblico, esatto. Metterlo nella condizione di poter fruire. Esatto, quindi la fruizione di un certo tipo di lavori va fatto diciamo in momenti un po' all'inizio della serata. Però ci sono invece dei lavori che possono essere... possono essere fatti anche molto più tardi, e anche dei lavori che possono essere veduti invece, visti durante la serata, anche fugacemente. Mi ricordo per esempio Jennifer Rosa, no? L'anno scorso, che sono stati visti per tutta la serata in momenti quando il pubblico li voleva, non era per forza una cosa. Sì, io a questo proposito vorrei rubare le parole a un altro ospite della precedente edizione del festival, che è Pascarella, che è un critico... Che è stato co-conduttore ieri. Ecco. E lui ci fa sempre riflettere su questa cosa, no? Su questo concetto riguardo all'arte contemporanea performativa, riguardo al fatto che non è un'arte che sta lì e tu la guardi, ma è un tipo di arte che in qualche modo richiede la partecipazione dello spettatore, o comunque sì, del pubblico, o come lo si vuole chiamare, quindi qualcosa che attiva qualcosa nei confronti dello spettatore, e di cui l'artista è semplicemente non è l'artefice dell'opera in toto, ma è colui che accende la scintilla. E quindi forse questa urgenza è anche alla base del perché utilizzare più codici, per essere viva, entrare in dialogo con la persona viva che gli si pone innanzi e incontra, sollecitarlo da più punti di vista, perché alla fine anche noi siamo pluri codificati e codificanti, e questa separazione è abbastanza moderna, insomma. Quello è anche, secondo me, come dire, no, è figlio dei tempi, no? Cioè l'arte che man mano va verso l'ibridazione dei linguaggi e semplicemente fa parte della, è un discorso genealogico, mettiamola così. Poi non si sa dove si va a finire. Oggi siamo in questa fase, nella fase dell'ibridazione dei linguaggi artistici. Poi, cioè, non sta a noi dire se è una cosa buona, se è una cosa cattiva. A noi piace, non è, facciamo una questione di valore assoluto, vedremo dove arriveremo. Volevo cogliere l'occasione, prima del prossimo contributo musicale, per invitare, per coinvolgere ulteriormente i nostri ospiti. Il Coxo Spaziale è in realtà un piano segreto di colpo di Stato per instaurare la dittatura dell'arte. Contemporanea, però, contemporanea. Per mettere l'arte al potere. Se voi siete dei nostri, possiamo... direi che abbiamo più chance. E quindi un bel brano rivoluzionario. Sì. Ce lo passate ci sta tutto. Ce lo passate da tra dai vostri artisti? Volentieri. Now tell me, what's wrong with us? In the lives on our side. Cara Fedra. E allora, salve, è un piacere essere qui ospite su Radio Città Fujiko per Coxo Spaziale Speciale Setup, vero Stefano? Hai W detto, migliore. Hai detto benissimo, cara Fedra, sono veramente sterrefatto di averti qui come... Sterrato! Esatto, no, sono sempre io che ringrazio, sto scoprendo moltissime cose. Ho fatto questo praticamente finito ormai il mio seminario di lingua coxica. Non pensavo dopo il fuori onda che mi uscissi con così, però. Ma sono stato rimandato all'esame finale, quindi dovrò ripeterlo. Ottimo, ottimo. Quindi ti riavremo a Coxo Spaziale presto per le verifiche. Sì, sì, sì, che sì. Grande, che grande bella novità. Fra l'altro ho per Aspera come testimone che Stefano Migliore si rimetterà presto il W. Ebbene sì, qualsiasi cosa significhi. Ok, dai. È un indumento. Allora, abbiamo Stefano Migliore qui da un sacco, abbiamo da un sacco anche per Aspera, perché sono stati meravigliosi qui con noi in queste giornate fieristiche, tutte piene di corse, arte, non possiamo trattenerli oltre, devo restituirvi tutti al mondo. Quindi, rispetto al Coxo Focus, vuoi fare un po' un attraversamento, così ti prendo anche appunti e magari ci metto una buona parola per il Coxo Test. Ma volentieri, volentieri. Quindi, rifacciamo un attraversamento di questa puntata e poi vediamo se c'è qualcosa da aggiungere, se c'è un punto cui siamo giunti oppure se semplicemente ci salutiamo e... Ma volentieri. Perché andiamo a bere uno spritz, però io mi sa che non ce la faccio. Volentieri, Fedra, no, non consumare bevande alcoliche. Hai ragione. Che non fa bene alla salute. Mi faccio solo di Coxo Spaziale. Esattamente. Volevo chiedere il tuo aiuto da ospite per fare questo recap. Certo, perché Stefano, io ho le idee confuse essendo un anziano conduttore di Coxo Spaziale. Oggi sono un anziano conduttore. E te ne sei fatto due. Quindi, ti aiuto. Maria, aiutaci tu. Va bene, quindi l'aiuto viene da casa, in questo caso dall'ospite. Mi gioco l'aiuto da casa. Perché mentre eravamo fuori onda e mentre stava andando il brano rivoluzionario, abbiamo un po' ricapitolato appunto quello di cui abbiamo parlato puntata. L'apparato, fino ad arrivare e il contenuto. All'apparato, esatto. Ovvero la domanda di Fedra è questa. E mentre la struttura formale del festival è rimasta la stessa, in questi anni si è riscontrata una modificazione di quello che è il contenuto, che va poi inserito in categorie che invece sono rimaste identiche. E quindi la domanda a cui io non so rispondere di Fedra era qual è il rapporto tra apparato e contenuto? E a questo punto risponde Stefano Migliore, esatto, giusto? Perché i ruoli si capovolgono completamente. Allora, siccome l'aiuto del pubblico da casa è già stato utilizzato, io vorrei provare ad andare a bussare. Ma alla reception? Sì, potrei chiedere al... lo splendido studio di Radio Città Fujiko al primo piano di setup è proprio a ridosso del guardaroba e Stefano cercava di bussare in quella direzione, ma l'ho fermato in tempo. A parte che, secondo me, sono tanto pazienti e cari i ragazzi di setup che, insomma, ci stanno sostenendo e stanno anche ascoltando le puntate, quindi ormai sul Coxo Focus forse ne sanno anche più di me. Andiamo ed effettivamente potrebbe essere una dritta. Io sono assolutamente d'accordo, riflettevo ora in questo momento sull'apparato, ma stavo andando in una direzione marxista, interstellare, con tutta probabilità anche marxista. C'è la X anche lui, del resto. Sul rispetto all'apparato, del suo contenuto, tante volte si dice il rischio è che l'apparato diventi contenuto, ma perché questa è una cosa che spaventa? Perché ne è a scapito del contenuto? Ma noi non siamo spaventati, perché in realtà stiamo parlando di categorie consapevoli della loro assoluta fluidità. Nessuno ci crede. Come diceva Ennio prima, ci sono perché ci devono essere, però la consapevolezza di tutti, degli artisti, degli organizzatori e del pubblico che è parte attiva di questi lavori, come invece diceva Vincenzo, è che siamo in un mondo estremamente fluido e da questa fluidità ci lasciamo trasportare e iniziamo il nostro viaggio, il nostro sogno, che è quello a cui queste arti servono, portarci fuori dal mondo. Sì, infatti volevo dire che per esempio adesso la danza contemporanea spesso è parlata e non danzata, nel senso, però sì che continua a chiamare danza. Oppure è danzata, come dire, che male, no? Sì, volutamente no? Male, esatto, no? Quindi come... Cioè... Oppure addirittura è ballata, non danzata, è un ballo. Uno dei più grandi di adesso, che sono di danza contemporanea italiano, ha fatto un ballo, non una danza ultimamente. Ha preso un ballo famosissimo austriaco e l'ha fatto diventare il suo nuovo spettacolo, ma è un ballo, non è una danza. Copiato, tra l'altro, quindi, ma va benissimo. Questo ti dimostra proprio che la categoria non esiste se non nell'artista stesso. È l'artista che decide in quale categoria stare, ma poi usa tutte le arti, perché può, per fortuna, scegliere qualsiasi modo. Allora si realizza quello che diceva Frank Zappa: parlare di musica è come danzare di architettura. Perfettamente. Si è compiuta. Questo conferma la lungimiranza del maestro Zappa, che lui era un grande. Salutiamo. Salutiamo subito, immediatamente. Salutiamo. Ciao Frank. Franchino. E io che sono ritornata da ospite coxofonica a co-conduttrice stabile. Mega galattica. Non posso dire altro che Coxo Focus è anche questo. Grazie a voi per aver arricchito il nostro punto di vista privilegiato dal punto di vista di un festival, addirittura niente meno, realizzato da artisti a loro volta, sia nell'organizzazione che nel contenuto. E grazie a Stefano Migliore per aver giocato col W insieme a noi e per aver anche dal suo punto di vista concorso a specificare meglio alcuni gangli un pochino, come dire, ottusi, se vogliamo, che stentavano a comunicare. Grazie a te Fedra per lo sforzo epico che Coxo Spaziale compie ormai da ere geologiche. Ho 40 anni, non è che... Ma il Coxo Spaziale nasce prima. Ah sì? Non lo sapevo. Chi è stato? Secondo me un workshop mistificante sul Coxo. Workshop, sì, mi hanno spiegato questo. Il Coxo Spaziale è un'entità preesistente. Allora ti prego, quando vieni a fare paura in palcoscenico, vieni un quarto d'orina prima, così magari mi illumini via via durante le menzioni di che cosa si dice sul Coxo, di che cos'è il Coxo prima di noi. Ci proveremo, l'insegnante era particolarmente scontroso, ma... Aveva il W? No, non lo so, non l'ho notato. Non l'ho notato, non l'ho notato. Beh, allora comincio in ordine ospiti. Da sinistra a destra, così come si scrive. Grazie Vincenzo Scorza per essere stato con noi al Coxo Focus. Grazie a te. Grazie Maria Donnoli per essere stata la nostra, che poi insomma si era detto il tuo ruolo all'interno del festival. Hai fatto una chiusa che ha raccolto tutto e ridato luce a queste divagazioni e questi viaggi. La portatrice grazie. Di senso per Aspico, per Aspere. Per Aspico. Grazie Cox. E il super mega galattico, anche voi due super mega galattici, direttore artistico Ennio Ruffolo. I love you. Ah, we love together. Sempre ti amo, no? Vabbè, queste cose fatele in privato, no, però. Mi giro la freccia. Voi non la vedete, la sentite e basta, ma credetemi, una gran figa. No, si dice discretamente si dice? Gnocca, Cox. Ah, scusa, discretamente, ma no, tu non sei discreta. Tu sei una buona paura. Hai sgambettato. Va bene, allora non mi resta che mettere il jingle creato da Lolli apposta per gli speciali di Coxo Spaziale, che è fenomenale, e anche anticiparvi che Riccardo Lolli è proprio lì e sta venendo qui per parlare anche lui di Coxo e oltre. Grazie. Guardate con prudenza. Ciao. Coxo Spaziale, speciale, eccezionale. Se tu sei tanto speciale, Coxo Spaziale, speciale, eccezionale. Se tu sei tanto.